1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. L'Italia si desta. Le 7 e 20 minuti in punto, eccoci cari ascoltatori, pronti a leggere i giornali. Oggi vi racconteremo ovviamente la situazione politica, lo faremo in modo diverso invece che far parlare i protagonisti di ieri, di questo teatrino, non lo so come lo volete definire, sui giornali è definito in vari modi, da farsa a teatrino a piroetta, che è successo ieri al Parlamento. Noi invece vorremmo raccontarlo attraverso gli occhi di chi ci guarda dall'estero. Dall'estero avremo ospiti due colleghi, due giornalisti, uno americano che vive in Italia e uno dalla Germania, un italiano che vive in Germania, per capire come ci guardano da lì e cosa pensano di quello che accade dal punto di vista politico in Italia. Questo più tardi, ora i giornali. Giovedì 3 ottobre i titoli, molti dei quali declinati alla situazione politica con la fiducia al governo Letta. Resa di Berlusconi, fiducia larga a Letta, così titola il Sole 24 Ore, mentre per il Corriere della Sera: resa di Berlusconi, ora il governo è più forte. Repubblica, la sconfitta di Berlusconi. Per il Fatto Quotidiano, la buffonata, questo è il titolo. Il Giornale, caccia ai berlusconiani. La Stampa, fiducia a Letta, il PDL si spacca. Il Messaggero, fiducia la resa di Berlusconi. Libero, piroletta di Silvio. Il Secolo XIX, Berlusconi sfiduciato, il governo va. Per Avvenire, il governo c'è più saldo. L'Unità, Berlusconi perde la faccia, mentre il Manifesto, scudo incrociato. Questo è il titolo, come spesso azzeccano, il Manifesto forse più calibrato, no? Effettivamente io lo dico da mesi, è tornata la Democrazia Cristiana, ve l'ho detto da mesi, scudo incrociato. E ci sono delle battute anche ieri che circolavano in Parlamento appunto sulla rinascita della Democrazia Cristiana 2.0. Allora, intanto voglio partire da cosa? Alcuni articoli che trovate, alcune segnalazioni dai giornali. La prima riguarda il mondo della sanità e riguarda tutti noi, perché è uscita una classifica dei migliori ospedali italiani, una fotografia abbastanza impietosa nel dividere l'Italia in due parti, nord e sud. La classifica degli ospedali, i 5 migliori sono al nord, così titola Repubblica in prima pagina con Michele Bocci e Fabio Tonacci, i giornalisti che hanno scritto l'articolo, che si riferisce a una classifica stilata dalla AGENAS, l'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari delle Regioni. Ha pubblicato questa ricerca sugli esiti dell'attività sanitaria del 2012, facendo un censimento di 1.440 ospedali pubblici e convenzionati italiani, classificati in base a una quarantina di indicatori, dalla mortalità per infarto a quella per gli interventi di cardiochirurgia, per l'ictus, il tasso di cesarei, le operazioni di colicisti, in laparoscopia. Insomma, ne è venuta fuori una classifica dell'efficienza. C'è l'eccellenza che resiste, scrivono gli autori dell'articolo. Nonostante tutto, è il San Raffaele di Milano, afflitto da scandali e debiti, ma ancora è il miglior ospedale italiano per qualità delle cure. 650 chilometri più a sud, invece, al Federico II di Napoli, quest'estate, per mandare in ferie il personale, hanno chiuso i reparti di oculistica e chirurgia plastica. Da allora non hanno mai riaperto l'eccellenza che fu. Ecco l'Italia delle mille sanità, strutture affidabili e buchi neri, dove le risorse sono al lumicino, gli sprechi diffusi, i malati troppo spesso seguiti male. Lombardia, Toscana, Veneto, Emilia e Piemonte riescono a assicurare un'assistenza adeguata, seppur ovviamente tra alti e bassi. E poi ci sono invece Calabria, Sicilia, Lazio, Molise, Campania, dove la situazione è al di sotto del livello accettabile. Appunto, tra i primi 10 ospedali migliori d'Italia, secondo questa classifica, 6 sono della Lombardia, 6 su 10. Primo il San Raffaele, al secondo posto gli ospedali civili di Brescia, quelli della discussa cura stamina, ma soprattutto dell'eccellenza in oncologia e cardiochirurgia. Poi l'azienda ospedaliera di Alessandria, e dunque al terzo posto, e così via. Al quarto posto l'ospedale Manzoni di Lecco, poi l'azienda ospedaliera di Perugia, al quinto posto. quindi Brescia, la poliambulanza, al settimo Fornarole di Magenta, all'ottavo il Niguarda di Milano, al nono posto Alto Chiascio di Gubbio e al decimo Santa Maria del Carmine di Rovereto in provincia di Trento. I peggiori invece, il peggiore certificato Federico II di Napoli davanti a Messina, e poi ancora l'azienda ospedaliera dei Colli Monaldi di Napoli, San Filippo Neri di Roma, l'azienda universitaria Policlinico di Napoli, quindi 3 su 5 dei peggiori a Napoli, quindi Bari, Caserta, Pomezia, Valdichiana e Caserta, Sant'Anna e San Sebastiano. Insomma, i migliori o peggiori in un'Italia che quindi non garantisce un'equità anche a tutti gli italiani, a coloro che vivono in zone dove, secondo questa classifica, l'eccellenza sanitaria è davvero un qualcosa lontana da venire. Oh, per buttarci sulla politica italiana, ma prendendola da un altro lato, udite, udite, cari italiani, non ci hanno detto nulla. Peter Bescapè. Il 4 ottobre, domani, c'è un referendum. C'è un referendum per abolire il Senato. E non ci hanno detto nulla. Lo dice oggi il Corriere della Sera. Peter Bescapè scuote la testa. Per abolire il Senato della Repubblica. In Irlanda. Ah, ecco, mi sono... Sì, vabbè, anche se non mi mandi a fanculo, va bene lo stesso. Comunque, in Irlanda, Fabio Cavalera sul Corriere della Sera. A pagina 19, costi della politica, Dublino elimina il Senato. Io per un attimo ho avuto un sussulto, l'avevo già letta qualche tempo fa per la verità questa notizia, e invece Fabio Cavalera racconta: provate a chiedere a un senatore italiano o a un lord britannico, vuoi tu lasciare la poltrona ed essere pensionato per sempre? Ebbene, nella ex Tigre Celtica, l'Irlanda, finita commissariata dall'Europa per i suoi rovesci finanziari ma oggi sulla via di una renta risalita, i 60 senatori, già questa cosa, 60 sono i senatori irlandesi, 60 senatori della Camera Alta nel luglio scorso hanno preso una decisione storica, pur dividendosi 33 a 25, due neutrali, hanno votato per autoeliminarsi, ovvero cancellare l'istituzione in cui siedono. Vi rendete conto? Hanno deciso di autoeliminarsi. Domani 4 ottobre dunque i cittadini della Repubblica andranno alle urne per il referendum che sancirà la chiusura per inutilità ed eccessiva spesa del Senato dell'Irlanda. Dell'Irlanda, state tranquilli e sereni, cari ascoltatori, dell'Irlanda. E qui invece arriva il commissario della Spending Review. Ebbene sì. Notizia che era stata anticipata qualche tempo fa, ormai certa, si tratta di Mario Cottarelli, Carlo Cottarelli, che viene dal Fondo Monetario Internazionale, economista indicato sia dal ministro del Tesoro Saccomanni sia dal Premier Letta come prossimo commissario alla Spending Review, sta preparando le valigie per lasciare Washington e il fondo, trasferirsi a Roma. Da Washington l'americano esperto di tagli e conti pubblici, così pagina 16 del Corriere della Sera, arriva Carlo Cottarelli. Anche per Libero la notizia, Cottarelli è il Mister Spending Review, ma Libero già dice aumenterà la spesa. Ai, i soliti inguaribili pessimisti. Non lo so se aumenterà la spesa, io voglio sperare invece che diminuisca la spesa. Secondo le previsioni del Corriere della Sera, il prossimo anno ci sarà un taglio della spesa di 4 miliardi di euro. Sono bruscolini, oltre 800 miliardi della spesa pubblica italiana, quindi sono bruscolini 4 miliardi. Però, intanto c'è anche la polemica sul suo stipendio, che prenderà nel giro di 3 anni, ovviamente lascia il Fondo Monetario Internazionale, e c'è anche la polemica, scrive Libero, per il fatto che prima fu Enrico Bondi, ex con Mario Monti, il super risanatore di Parmalat, poi lasciato da Bondi tutto passò all'allora ragioniere dello Stato Mario Canzio, risultato niente tagli, poi dopo è toccato credo anche a Giarda, no, e lui era il ministro comunque che curava questa cosa. Ora Cottarelli, dal 1988 al Fondo Monetario, per la verità, scrive il Corriere della Sera, è definito uno molto rigoroso nel guardare i bilanci degli stati, non è però definito uno che per forza è contrario alla spesa pubblica a tutti i costi. Staremo a vedere, speriamo, nella Spending Review con il nuovo commissario Cottarelli. Ora la pubblicità, rientriamo dal profluvio di pagine dedicate a quello che è successo ieri alla politica. Io ho un sogno, come ho scritto sul mio profilo Twitter, Alino Milan, ho un sogno che da domani i giornali ritornino a fare i giornali, raccontino di cose concrete. E per un giorno invece, anche ora oggi, vi dovete accontentare di qualcos'altro. Ed ecco Alessandro Milan che legge i giornali come nessuno al mondo sa leggerli. E allora eccoci qua alle 7:34 minuti, siete pronti? Siete pronti? Io lo faccio con un tono un po' di... E devo leggere tante pagine dedicate alla politica, non c'è quotidiano che non ne dedichi 10, 15 a quello che è successo ieri, momento importante, certamente in un paese normale in cui, cioè, la politica va sulle prime pagine per le cose che fa. Qui c'è stata invece una situazione in cui si dimettono i ministri, no, non si dimettono, si chiede la fiducia, Berlusconi voteremo la sfiducia, poi il partito rischia di spaccarsi, quindi Berlusconi, i capogruppi dicevano due minuti prima votiamo la sfiducia, lui va in aula e dice con travaglio ho deciso voteremo la fiducia e vabbè. Allora, alla fine la fiducia c'è stata, e, tutti a interrogarsi con delle parole che troverete, piroletta addirittura sul quotidiano Libero, farsa, teatrino, retromarcia, inversione a U, insomma ogni giornale usa il suo sostantivo per cercare di capire che cosa sia successo ieri. Letta, basta con i ricatti, adesso avanti più coesi, così titola Il Sole 24 Ore a pagina 3. Emilia Patta racconta: oggi c'è stato il risultato come lo intendo io, che ci sarebbe stato comunque, per essere chiari fino in fondo è un risultato rispetto al quale ho intenzione di lavorare, mantenendo il punto fermo del fatto che non esiste un collegamento tra l'attività di governo e le vicende giudiziarie di qualcuno. Così Enrico Letta, che ha detto ora si va avanti per fare cosa, come il direttore del Sole 24 Ore e di Radio 24 Roberto Napoletano nell'editoriale che c'è in prima pagina del Sole fa un duro richiamo alla politica. Scrive: l'ultima giravolta di Berlusconi con l'annuncio a sorpresa di votare sia la fiducia sul governo Letta vuol coprire una bruciante sconfitta politica. La politica è vedere oltre, offrire alla gente una prospettiva realistica invece di chiederla, fatta di cose concrete che si possono toccare. Come dire, sappiamo ciò che volete, ma perché accada bisogna andare in questa direzione, dovete avere fiducia in noi, questa è la politica di cui l'Italia ha bisogno. Per Enrico Letta il difficile inizia ora, gli italiani non ne possono più delle beghe della politica, della guerra dei coltelli PDL Forza Italia, ma anche del PD o in un centro sempre dilaniato. Presidente Letta, ora sulla partita grossa non ha più alibi, faccia quello che ha detto. I giovani senza lavoro hanno superato la soglia del 40%, troppe aziende continuano a chiudere i battenti, troppe famiglie hanno difficoltà a fare la spesa nell'ultima settimana del mese. Questa è l'Italia vera che chiede di essere governata senza illusionismi vecchi e nuovi e con la serietà del fare. Dunque, come dire, ora non ci sono più alibi. E la giornata di ieri è raccontata da migliaia di retroscena, il giornale con Adalberto Signore, li ho cresciuti io Berlusconi, non mi possono pugnalare. E invece il Corriere racconta di questa drammatica notte, il faccia a faccia, ieri Verderami racconta sul Corriere della Sera, pagina 9, Alfano ha ricevuto Berlusconi, si sono incontrati, eccomi presidente, sono il traditore, mi consegno, così Alfano a Berlusconi, facendo il verso al titolo del giornale di ieri, no? Angelino Alfano tradisce. Il Cavaliere ha avuto un momento, racconta Francesco Verderami, di grave incertezza, poi alla fine tra falchi e colombe ha scelto appunto di fronte all'appello, la prego presidente ci pensi ancora questa notte, il presidente ci ha pensato, ha dato la fiducia al traditore, così conclude Francesco Verderami. Alfano, che ora racconta il Fatto Quotidiano con Carlo Tecce a pagina 3, ha tirato fuori il quid, no? La famosa battuta, gli manca il quid. Anche per Repubblica, pagina 2-3, il retroscena della giornata con a Mezzogiorno, Denis Verdini racconta al leader: mi sono sbagliato, i dissidenti sono il doppio rispetto alle previsioni, crolla tutto, quasi in lacrime. Verdini dice comunque devi tenere duro, Ghedini anche, votiamo la sfiducia, ma racconta Repubblica viene allontanato a brutto muso da Berlusconi e dunque è la vittoria delle colombe e la retromarcia di Berlusconi che poi al Senato dice votiamo la fiducia anche se con Travaglio. La battuta che mi è venuta a me anche in quei momenti non riesce a non pensare a Marco Travaglio. Vabbè. Beatrice Lorenzin, uno dei ministri, ministro della salute che è rimasta e che aveva criticato il partito con la svolta da Falchi, dice non uccidiamo il padre ma l'estremismo, in un'intervista all'Unità intervistata da Claudia Fusani. Più che difficili sono state giornate sofferte, non è stato facile prendere una decisione così forte, accusare frontalmente il mio partito e la leadership col rischio altissimo di essere fraintesa. Berlusconi come sempre è un uomo che sa ribaltare le situazioni con eleganza e dignità. Mi è spiaciuto che qualche cosiddetto fedelissimo lo abbia messo in quelle condizioni. Chi ha perso oggi, dice Beatrice Lorenzin, quel gruppo di dirigenti che ultimamente si è determinato la guida del partito in cui non ci ritroviamo e che non ci rappresenta. In questi giorni è successo che una parte del partito, quella moderata, ha dovuto prendere le distanze e adottare una serie di misure per tutelarsi sul tipo di evoluzione involuzione che stava avendo il partito nonostante noi. Così Beatrice Lorenzin. Oh, io l'ho detto, torna la Democrazia Cristiana, ve l'ho detto da mesi, e ieri Formigoni se la rideva così al Senato, racconta Il Secolo XIX a pagina 5 sotto il titolo I ribelli di CL protagonisti dell'altra maggioranza. Se la rideva così Formigoni, un democristiano arriva sempre fino in fondo. Così sorrideva Formigoni. E guardate, scudo incrociato, questo è il titolo del Manifesto prima pagina, il trionfo democristiano è anche l'articolo di Andrea Colombo a pagina 3, torna la Democrazia Cristiana. E in effetti fanno notare tutti che sono soprattutto l'anima cattolica, Lupi, Formigoni, coloro che stanno animando così la divisione all'interno del Popolo della Libertà. Alessandro Sallusti sul Giornale, nel suo editoriale, è molto duro e dice per esempio Cicchitto, col quale ha avuto lo scontro a Ballarò, Cicchitto ieri con la bava alla bocca contro Berlusconi, applauditissimo dalla sinistra, Formigoni, uno salvato dalla furia manettara della Procura di Milano dall'elezione a senatore voluta da Berlusconi. Questo scrive Alessandro Sallusti. E tra l'altro conclude il suo editoriale, per cantare vittoria a queste persone, aspettate, prima o poi dovrà succedere, aspettate di passare per le urne. Questa è la previsione per Alessandro Sallusti. E poi c'è Daniela Santanchè. Daniela Santanchè fa 3 interviste a Repubblica, alla Stampa, al Fatto Quotidiano. Dice le stesse cose. La migliore frase però è su Repubblica. Berlusconi è come il Crodino, fa impazzire il PD. Questo è lo spot frase di Daniela Santanchè su Berlusconi, e dice al Fatto Quotidiano, ma ha vinto lui, anzi no, al Corriere della Sera, Fabrizio Roncone, ma state scherzando, ha vinto Berlusconi. Daniela Santanchè dice, ha vinto Berlusconi, non ve ne siete accorti, ha spiazzato tutti, quelli del PD li ha visti, basiti. Per la verità Enrico Letta sorrideva in maniera un po' con quel labiale grande, no, quando c'è stata la fiducia. Comunque Daniela Santanchè fa 4 interviste, 3 o 4 interviste a dire, ha vinto Berlusconi, questa è la novità. Sul Sole 24 Ore c'è una intervista al nuovo amministratore delegato di Intesa San Paolo, colui che ha sostituito Cucchiani, vale a dire Carlo Messina, che dal punto di vista delle banche, intervistato da Alessandro Graziani a pagina 8, racconta scampato pericolo, ora bisogna agire per la ripresa. È un'interessante intervista perché racconta Messina, la caduta del governo Letta avrebbe vanificato i segnali di uscita della crisi economica, la stabilità in questo momento è fondamentale e dunque annuncia anche Intesa San Paolo sarà la banca dell'economia reale, del rilancio. Questa la trovate sul Sole 24 Ore a pagina 8, trovate anche altro sul Sole 24 Ore. A questo proposito voglio chiedere a Mauro Meazza, al quale do il buongiorno. Benvenuto Meazza. Buongiorno Alessandro. Allora, buongiorno. Tu Mauro, come la definisci? Perché abbiamo trovato articoli che parlano di farsa, teatrino, retromarcia, in versione AU, anche retromarcia su Roma. Cosa è successo ieri per te? Ma non saprei bene, io ero convinto che non avremmo più avuto un governo, invece ce l'abbiamo ancora, ma poi è sempre lo stesso. Sì. Non so quanto poi riusciamo a stargli dietro anche a raccontarlo. No, infatti. Ma visto che mi chiedi un giudizio, guarda, io voglio proprio cambiare argomento passando di palo in frasca. Tu ti ricordi la pagella a scuola? Sì, sì. Ecco, noi oggi abbiamo Casa 24, che si occupa di una cosa molto interessante, la pagella energetica. Con terrore io me la ricordo a scuola. Ecco, anche questa qui è una pagellina abbastanza preoccupante, perché se vuoi vendere, affittare, ma anche donare un immobile, devi stare a questa, devi produrre questa pagella come se la cava il tuo immobile in quanto a energia, se è energivoro, se invece è risparmioso, eccetera, ma siccome si capisce poco di come scriverla, c'è abbastanza confusione. Allora ci sono un bell'articolo di Michela Finizio e una serie di domande e di spiegazioni per capire come comportarsi. Attenzione, cioè, strano, hanno fatto una cosa complicata in Italia, di solito fanno le cose molto semplici. No? Infatti, ma è per quello che te lo racconto, perché mi sembra si leghi bene alla domanda che mi facevi prima con le questioni politiche, no? Anche questo non è assolutamente lineare e quindi bisogna perderci un po' di tempo per capirlo. Se guardate Casa 24 riuscite a capirci. Tra l'altro ci sono altri spazi a domanda e risposta per cercare appunto di far chiarezza. C'è la parte sul bonus mobili, sai che c'è uno sconto per comprarsi mobili se ristrutturi una casa, e poi naturalmente l'IVA è è la nostra grande passione di questi come giorni. Come ha detto Saccomanni ieri subito, l'IVA al 22% rimane, è legge. Esatto. Quella è l'unica certezza in questi giorni di grande confusione che abbiamo, no Mauro? L'IVA su questo è sono legge. Stati, devo dire, subito chiarissimi. Non abbiamo ancora capito se ha vinto uno o ha vinto l'altro. Sappiamo chi ha perso. Sappiamo che intanto l'IVA ce la teniamo al 22. Allora, siccome è al 22... guardatevi le prime pagine di norme e tributi, ci sono ancora poi le domande e le risposte, ricordate c'è sempre anche un forum su internet per mandare le domande. Certo. Che altro dirti? Ah, una cosa volevo segnalarti, c'è un pasticcetto, guarda caso, sulla vicenda dei contratti a termine, siccome sono, come sai, la maggioranza. C'è un pasticcetto su quanto tempo deve trascorrere tra un rinnovo del contratto e l'altro. Non te lo sto a spiegare perché a quest'ora del mattino potrebbe essere indigesto, però ti assicuro, pagina 31 del Sole 24 Ore, il rebus della durata, cioè devono passare 10, 20, 60 giorni, il ministero dice delle cose, la legge ne dice delle altre. Come al solito, insomma, la solita chiarezza all'italiana. Mauro, ti saluto che devo andare alle informazioni sul traffico e poi continuiamo con le altre notizie anche di cronaca sui giornali. Alessandro Milan, il panettiere dell'informazione. E avete sentito che appunto Saccomanni ha detto l'IVA rimane, è legge, ormai non si torna indietro, sottotesto del ministro dell'economia, mio sottotesto. Cioè, come dire, voi italiani occupatevi e seguite tutto questo teatrino della politica. Magari la gente si arrabbia per questo, per le cose per le quali bisognerebbe arrabbiarsi, tipo l'IVA, veramente, perché incide sui nostri portafogli in maniera concreta, niente. Che dire della rissa 5 Stelle? Ieri la senatrice De Pin ha detto voto la fiducia, sono partite le accuse, gli insulti, addirittura qualcuno giura in aula di aver visto il collega Castaldi dirle ti aspettiamo fuori, in maniera, come dire, molto democratica. Comunque pare che abbiano finito la garrota tradizionale per i dissidenti. No, a parte la battuta molto amara, insomma, c'è anche questa situazione all'interno del Movimento 5 Stelle con una senatrice che ha detto voto la fiducia e poi finita, la troverete sui giornali, tra le lacrime per gli insulti che alcuni insulti che ha ricevuto. Alcune notizie di cronaca che ho trovato sui giornali molto interessanti a mio modo di vedere. Il rilancio della cultura, il rilancio della Sicilia Italia, pagina 15 del Fatto Quotidiano, con i casi no. La proposta è di Michela Stancheris, che ha fatto una vita al fianco di Rosario Crocetta come assistente e poi è portavoce. Poi, quando Crocetta ha sostituito Franco Battiato, assessore alla cultura, ha messo la sua collaboratrice all'assessorato regionale alla cultura. Ebbene, Valerio Cattano sul Fatto Quotidiano: la Sicilia ha 111 siti culturali che ospitano un quarto del patrimonio nazionale, eppure nel 2012 l'incasso è stato di appena 13,5 milioni di euro. Pensate, la sola Pompei registra un incasso per 17 milioni di euro l'anno, un solo sito. 111 siti culturali in Sicilia non guadagnano tanto, non fanno entrare tanto quanto un solo sito come Pompei, sebbene è molto importante. Questo per dire come la valorizzazione è davvero nulla dei siti culturali in Sicilia. E in questi mesi che cosa propone ora l'assessore alla cultura, scrive il Fatto, della Regione Sicilia, Michela Stancheris, invece di rilanciare questo? Sono per l'apertura dei casinò in Sicilia. Ritengo non ci sia alcun rischio, anzi reputo che siano un ottimo volano per il turismo, generando nuovo afflusso, facendo girare l'economia. Potrebbero essere due, uno a Taormina e uno a Cefalù. Eccola qui, i casinò. Non è al casinò, ma è pronto a incassare Maurizio Crozza. Cari italiani, siete pronti a questa cifra? Malcolm Pagani, sono sempre sul Fatto Quotidiano, racconta che Maurizio Crozza potrebbe passare alla Rai col suo show dalla 7. Già collabora per la Rai a Ballarò, ma dalla 7 alla Rai col suo Maurizio Crozza show, cioè comunque il suo spettacolo. 30 milioni in due anni, non tutti a Crozza, è per lo show. Per Crozza si vocifera, scrive il Fatto Quotidiano, di 4 milioni e mezzo, forse 5 milioni di euro, 5 milioni e 30 milioni in generale in due anni, 30 milioni per lo show. Accidenti, a questo non bastano davvero i miei due urini con i quali giro in tasca, li metto a disposizione anche a questo, anzi uno per l'aumento dell'IVA a Saccomanni e uno per portare a 30 milioni di euro in due anni lo show di Maurizio Crozza alla Rai, se volete e se vi aggrada, lor signori. Volete sapere chi è che ha comprato l'isola di Budelli? 2 milioni e 940 mila euro, gioiello anche naturale in Sardegna. L'ha comprato un neozelandese, ora si sa il nome, Michael Hart, 47 anni, neozelandese, banchiere, titolare di società in Svizzera, sarà in Sardegna nei prossimi giorni, pagina 31 del Corriere, Alberto Pinna fa un'intera pagina, il paradiso, regno di un banchiere, il neozelandese Hart ha pagato quasi 3 milioni, dice non cementificherò nulla, anche perché non è possibile per legge, la perla dell'arcipelago della Maddalena verrà trattata, fanno sapere i suoi rappresentanti qui in Italia nel modo più giusto, e lo dirà lui stesso quando verrà nei prossimi giorni al presidente nazionale dell'arcipelago e al sindaco della Maddalena. Quando verrà, vabbè, ci comprano non solo le aziende, ci comprano pure le isole, ci pigliano a tocchi, a pezzi, a tranci, e vabbè, evviva. Chiudiamo con il premio La Carta Costa. Devo fare una premessa: ieri sono scatenati via mail per La Carta Costa vinta da Oscar Grazioli sul Giornale, perché dicono che ho criticato i cani e soprattutto i gatti micini. Ma come criticare? Ho ricevuto tante proteste garbate, ho ricevuto anche questa mail che vorrei leggere. Lei si definisce intelligente? Lei non capisce un cazzo, lei è un cancro di questa società, il suo gatto ha avuto una sfortuna assoluta nell'avere un padrone rozzo, ignorante e cattivo con la sensibilità di un pezzo di ghiaccio. Sono persone come lei che andrebbero usate dalla scienza per capire da dove arriva una tale incompetenza. Caro ascoltatore, effettivamente ho fatto un errore, il mio gatto in realtà è una gattina, Zen, mi dispiace. Comunque il premio La Carta Costa di oggi va a Massimo Gramellini. Torniamo alla politica nelle inutili pagine. ci sono anche le pagelle. Massimo Gramellini ha fatto una pagina, 11 della Stampa, per le pagelle. Come si è comportato Napolitano? Voto 8 in questi giorni. Letta 7. Berlusconi 1, voto 3. Berlusconi 2, voto 5. Alfano 7 più. Cicchitto 7,5. Santanchè 2. Scilipoti 7. Scilipoti. Brunetta 6. D'Alema senza voto. Formigoni 4. Ma no, ma chi se ne frega, pure le pagelle. Ma che è una partita di calcio? È proprio un vero teatrino. Ed è proprio vero, cari amici della Stampa, che la carta costa.